apro gli occhi già alle 5 di sobbalzo. Mi alzo col pensiero che tutti mi state sul cazzo. E se il buongiorno si vede dal mattino, ha finito di fare casino. Appena sveglio ammazzerò il vicino. Proseguo la giornata sotto i migliori auspici. Ci sono i colleghi seduti negli uffici. Qualcuno all'eccellenza che le rompere i coglioni. Tanti premi alla carriera, ricca di delusioni. In una vita piena ma vuota d'emozioni. Ho abbastanza cattiveria da spegnervi illusioni. 30 anni di carcere per voi li faccio volentieri. Vi do fuoco e il giorno dopo chiamerò i pompieri. Ho scheletri nell'armadio che sposto ogni 6 mesi. Vado spesso all'IKEA, sono soldi ben spesi. Mi faccio un alibi e vi ammazzo. Rimane la legittima difesa. Mi stavate sul cazzo. Mi state sul cazzo, mi sa che va ammazzo. Ne ho pieni coglioni fuori dal cazzo. Come spermato Zoe quando mi solazzo. Cerco solo un pretesto come in uno scazzo. Mi state sul cazzo, mi sa che va ammazzo. Ne ho pieni coglioni fuori dal cazzo. Come spermato Zoe quando mi solazzo. Non statemi alla larga, se no vi ammazzo. Vi ammazzo. Vi ammazzo. Vi ammazzo. Amici che vorrebbero mettermela al culo. Spero di vedervi molto presto in abito scuro. Al vostro funerale sai forse ci vengo. Se non ho un cazzo da fare sapete ci tengo. E ci metto una pietra su, meglio una lapide. Così non ci pensiamo più, amo le cose rapide. Ci sono cose che si dicono e chi la prende male. Figuratevi se mancherò a questo funerale. Negli occhi una profonda commozione cerebrale. Quanta cattiveria per celebrare il vostro giorno, quello più importante. Una rima è doverosa ed io per voi ne ho davvero tante. E con una di queste vi chiarisco giusto 2 cosette. Non mi spaventate quando fate bu bu bu 7. Arrestatemi prima che faccia una strage. Mi state sul cazzo anche se cliccate mi piace. Cliccate mi piace, cliccate mi piace. Mi state sul cazzo anche se cliccate mi piace. Cliccate mi piace. Vi ammazzo.